Sezione diciottesima di Nuove odi barbare di Giosuè Carducci. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Pierre. Nevicata. Lenta fiocca la neve pel cielo cinereo. Gridi, suoni di vita non salgono dalla città. Non d'erbaiola il grido o corrente rumore di carro. Non d'amor la canzon ilare e di gioventù. Dalla torre di piazza roche per l'aere le ore gemon, sospiri d'un mondo lontano dal dì. Picchiano uccelli raminghi a vetri appannati. Gli amici spiriti reduci son, guardano e chiamano a me. In breve, o cari, in breve, tu calmati, indomito cuore, giù nel silenzio verrò, giù all'ombra riposerò. Fine della sezione diciottesima.